piacere del dubbio. Di Gianluca Nicoletti. Appena finirà questa quarantena voglio prendere la macchina e andare in Lombardia, andare sotto la casa del mio fidanzato e citofonargli e farlo scendere e abbracciarlo. La primissima cosa che farò appena uscita dalla quarantena è andare dal parrucchiere, perché i miei capelli stanno diventando veramente lunghissimi, situazione ingestibile. Appena finisce questa quarantena, la prima cosa che faccio è andare in montagna in macchina, in bici, con qualsiasi mezzo, a fare cazzate con il mio amico che non lo vedo da un sacco di tempo. Allora, la prima cosa che farei, finita la quarantena, se durasse un altro mesetto, sarebbe chiappare a tutti i miei amici e andare a mangiare il sushi. Perché mandava da 2 settimane prima che iniziasse la quarantena, quindi ho proprio voglia di andare a mangiare il sushi. Siamo sottoposti a un continuo ripetersi di frasi e parole di passo. Una di queste è la fase 2. La fase 2 è quella che dovrebbe seguire la fase 1, che in questo momento sembra l'unica soluzione che abbiamo per fronteggiare per quanto possibile l'emergenza che stiamo collettivamente vivendo. Premetto, anch'io provo imbarazzo, fastidio, noia, senso di ripetizione nel parlare sempre dello stesso argomento, ma è obiettivo, non c'è alternativa, non ci sono altri argomenti, ci siamo scervellati, interrogati parecchio, io, Fabrizio Intonti, dice vogliamo cambiare argomento, parlare di qualcos'altro, ma di cosa possiamo parlare? L'unica deriva possibile ci potrebbe sembrare la poesia, potremmo parlare di poesia, ma non siamo poeti e non abbiamo questa profonda sensibilità di astrazione rispetto alla realtà per trascinare le persone che sono in questo momento immobilizzate nel loro cucinino o appiccicate al vetro della loro finestra rispetto a orizzonti che trascendano, vadano oltre, facciano pensare, immaginare. No, la gente vuole sapere esattamente cosa accadrà nella fase 2, quando finalmente qualcuno ci dirà, per quelli più ligi naturalmente alle regole, beh, potete uscire di casa. Beh, a questo punto cosa vi immaginate che sia possibile fare? Tutto torna come prima? Avremo una nuova vita condizionata o accadrà qualcosa che non è in questo momento nelle premesse, nelle rassicurazioni, nelle anticipazioni, nel mezzo detto e il mezzo nascosto delle voci ufficiali? Beh, questa mattina vorremmo dare a voi la dignità e la possibilità di esprimervi, ammesso che questo fosse un luogo in cui ha potere di attualizzazione sul piano pratico quello che è il desiderio comune. Beh, voi oggi ascoltatori della radio, che probabilmente sarete molto più numerosi perché state a casa, quindi vi facciamo compagnia, riempiamo il vostro spazio, il vostro tempo in maniera diversa. Cosa fareste se fosse a voi data la possibilità di decidere per la cosiddetta fase 2? E noi naturalmente abbiamo il nostro strumento del sondaggio per capirlo. La speranza e l'anelito di libertà degli italiani reclusi nelle loro abitazioni è tutta concentrata nella fatidica fase 2, che però è ancora tutta da definire. Vogliamo interpellare i nostri ascoltatori per provare a immaginare come dovrebbe essere la possibile evoluzione della nostra quarantena, per riportarci a una vita lavorativa e sociale più abituale, dovendo però convivere con un pericolo non ancora debellato. Chiamate l'800240024 e diteci qual è, secondo voi, la soluzione migliore per conciliare libertà e sicurezza nel futuro prossimo, schierandovi in una di queste categorie. 1. Geronto isolazionisti. Tutti i cittadini con età superiore ai 60 anni sono obbligati alla quarantena totale fino a quando perdurerà il rischio di contagio. Gli altri gradualmente torneranno alle loro abitudini, mantenendo alcune norme di sicurezza da rendere obbligatorie, come ad esempio indossare le mascherine. 2. Austero distanzisti. Tutti i cittadini senza discriminazione di età potranno ricominciare a uscire e a svolgere le loro attività consuete tenendo rigidamente una distanza di 2 metri, sia in luoghi e mezzi pubblici sia negli ambienti di lavoro. Rimarranno vietate tutte le attività che prevedono assembramento, tipo eventi sportivi, cinema, concerti, eccetera. 3. Liberal fatalisti. La vita deve riprendere senza sanzioni e obblighi. Ognuno si farà personalmente responsabile del bene comune. È meglio che questo accada subito in maniera pacifica, piuttosto che diventi la causa scatenante di disordini sociali. 800240024. Abbiamo sentito alcune voci di persone che vorrebbero capire, sapere cosa sia possibile fare. Noi abbiamo fatto altre proposte. Abbiamo tre categorie che possiamo definire le macro soluzioni possibili, le abbiamo così chiamate, i geronto-isolazionisti, che è una categoria che a me colpirebbe personalmente, avendo io 65 anni, ma sono quelli che dicono, è una soluzione, la cosiddetta soluzione israeliana, tutti i cittadini che hanno più di 60 anni stanno in quarantena, chiusi dentro casa, isolati, li portate da mangiare fuori dalla soglia di casa, se ne stanno lì, aspettano, almeno si salvano la vita. Aspettano quanto? Non lo so, 3 mesi, 6 mesi, 1 anno. Rimarranno così fino a che non ci sarà per loro sicurezza, essendo la categoria più esposta, più a rischio, che c'è qualcosa che può salvare loro la vita. Mi colpisce questa scelta, perché io dovrei starmene chiuso dentro casa a tempo indeterminato, continuerei a fare quello che faccio adesso io, ma non potrei vedere anima viva, probabilmente nemmeno i miei figli. 2, austero distanzisti. Tutti possono cominciare gradualmente a riprendere le loro attività consuete, tenendo però conto che il distanziamento fisico è indispensabile, quindi sempre a distanza di 2 metri, nei luoghi pubblici, nell'ambiente di lavoro, nei mezzi di trasporto. E naturalmente a qualcosa si rinuncia, cioè tutte le attività che prevedono assembramento, quindi partite, stadio, discoteche, rimpatriate al ristorante, eventi sportivi, concerti, no, quelli non si fanno più, perché è il margine di sicurezza che bisogna comunque sostenere. Liberal fatalisti, questa è una strada che vedo apparire molto nelle persone che giudicano e pensano che ci sia un'esagerata attenzione, quasi una sorta di dispotico imperio istituzionale sul fatto che non si possa in qualche maniera fare altro che rimanere chiusi dentro, una forma di controllo, la attuazione di tutti i catastrofismi, complottismi possibili e immaginabili, ci tengono dentro che poi ci daranno l'app che ci controllerà per sempre, poi faranno un vaccino che ci inserirà il microchip e ci controlleranno tutti, l'abbiamo detto che le scie chimiche avrebbero danneggiato l'umanità, questo è il risultato, poi ci sono i luminari, ieri mi hanno mandato, non voglio dire il nome, non voglio dargli una pubblicità estrema, un professore di filologia romanza specializzato in arpa celtica, che va dicendo anche nel sito ufficiale della sua università, che è l'Università di Bologna, che in realtà è tutto un complotto, è tutta una mistificazione, la gente illuminata dovrebbe capire che questo risponde a una volontà di dominio, quindi suonando l'arpa celtica ci dà le sue soluzioni. Ecco, in maniera più composta i liberal fatalisti dicono: beh, riprendiamo la vita, ricominciamo a fare quello che facevamo prima, sarà quel che sarà, tanto comunque le persone, se le tenete in casa rinchiuse, prima o poi usciranno, faranno una rivoluzione, romperanno gli argini, onde evitare un disastro di ordine pubblico, fate uscire la gente, sarà quel che sarà. Ci sarà il cosiddetto effetto gregge, ma l'immunità di gregge, moriranno i più deboli, quindi avremo una società più forte di eletti, o lentamente ci accorgeremo che magari esageravamo tutti, la vita continuerà come prima. Ieri c'era un totale idiota che portava i dati dell'Istat sulle morti dicendo li avete letti male, in realtà è morta molta meno gente adesso che l'anno scorso, c'è gente che crede anche a questo, quindi i liberal fatalisti hanno possibilità naturalmente di esprimersi. Allora, abbiamo la prima risposta, 800240024, Carlo da Torino, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Qual è la sua possibile soluzione, secondo lei la migliore? Allora, la migliore non gliela so dire, posso dirle che... delle tre, diciamo, perlomeno. Sì, sì, sì, è chiaro, dal punto di vista civile sarei per il geronto isolazionisti, nel senso che comunque... Lei quanti anni ha? Io sono ancora fuori, ma non per molto, ne ho 53. Ecco, vabbè, io sono dentro, però mi prenderei carico se questa fosse per il bene pubblico la soluzione minore, direi benissimo, me ne sto dentro non casa. Non per il bene pubblico, ma quantomeno per la tutela delle persone che potenzialmente rischiano di più. Nell'animo mi sento liberal fatalista. Nel senso che anche oggi, che siamo ancora nella fase 1, benché mi sforzi di rispettare le regole che ci vengono imposte, il desiderio di trasgressione e qualche scivolata ogni tanto sono abbastanza presenti nei miei desideri. Sì, ma il liberal fatalismo, come l'abbiamo immaginato noi, è una sorta di attività preventiva per impedire che ci sia un disordine sociale che avvenga come nei film catastrofisti, che a un certo punto la gente esce, spacca le vetrine, va in giro, saccheggia le case, ecco. Diciamo, tanto questo accadrà, se continuate a tenere la gente dentro casa, tanto vale che li fate uscire, sapendo che comunque questo comporta un rischio sociale, perché se escono tutti, si ricontagiano tutti. La mia sensazione, con le persone con le quali parlo, con quello che vedo sui social, è che la gente, passando i giorni, sembra che si stia adattando a questa nuova dimensione, piuttosto è più apprezzabile, più visibile la curva di adattamento che non quella di intolleranza, per cui forse su quell'aspetto non la vedo così necessaria. Quindi rimane che in maniera concreta il Gironto isolazionismo forse è la cosa migliore, la soluzione può israeliana. Può essere un compromesso sì. Funzionante, forse anche no, mi rendo conto, perché chi abbia meno di 60 anni è la cosa migliore, teniamo i vecchi a casa, noi usciamo, loro si salva la vita e pazienza, seguiranno la via mistica dell'assoluta meditazione, e sarà così. Carlo da Torino ha parlato, Walter da Rimini, buongiorno. Buongiorno, io sono per la seconda risposta. Austero distanzista. Sì, sì, io penso che adesso il senso civico sia aumentato nella gente, lo vedo ogni giorno, c'è sempre meno macchine in giro, la gente penso che abbia capito il pericolo che corre e quindi mi affiderei a questo. Sono sicuro che la gente capisce adesso il pericolo che corre. Ecco, l'austero distanzismo comunque riporta una vita, diciamo, di immediata relazione, poi tiene sì. Conto che comunque ci saranno sempre delle distanze da tenere, delle mascherine certo. Da indossare certo. E soprattutto ci mancherà tutta una fetta di attività ludico-ricreative che sembrava oggi fondamentale. Secondo lei il fatto che veniamo da una reclusione totale ci farà apprezzare piccole cose, ci basterà vedere l'amore della nostra vita dall'altra parte del marciapiede, già molto meglio che non vederlo per niente. Dare una carezza a distanza a una persona, molto meglio che non vederla assolutamente per nulla. Quindi una gradualità che ci porterà a una condizione di quasi normalità. Assolutamente sì, io lo penso così, anche perché vedo che è cambiato anche sui social il modo di approcciarci, cioè è diverso, cioè lo sento che c'è più amore, c'è più comprensione, quindi io mi affiderei a lei questo. Trova che si senta un senso di maggiore solidarietà e amore, ma io guardi ho un'impressione, sarà che un caso personale, a me non chiama nessuno al telefono e meno a me viene voglia di chiamare o sentire persone, sono più stiamo isolati più ci viene l'attitudine alla misantropia totale. Lei trova che in questo momento ci sia un sentimento generale di amore, cioè i vicini di casa quando mi incrociano fanno finta di non vedermi, hanno quasi paura che parlando ci si contamina, hanno anche dei margini di giusto timore, ma io trovo che lo stare isolati in realtà ci porta all'attitudine all'isolamento, per paradosso. Quando io torno a casa chiaramente sanno il lavoro che faccio e quindi ho proprio dei contatti umani diversi e mi sento quando ad esempio diamo meno dei Covid da consegnare, queste notizie gli fanno bene e tenere a casa adesso la gente ancora per tanto tempo penso che non faccia molto bene. Io mi auguro di questo senso civico, ecco, di queste paure che abbiamo avuto e poi non sono d'accordo a tenere in casa la gente oltre i 65 anni, perché poi vedono gli altri uscire e loro rimangono lì, non mi sembra giusto. Oddio, è meglio vedere gli altri uscire e stare a casa o vedere il coperchio della cassa da morto? Io sceglierei comunque la prima opzione, avendo io 65 anni, quindi sono il primo che dovrei stare dentro casa. Questa è una soluzione che in certi paesi la stanno prendendo e non è vista così in maniera così peregrina. Allora, ricordo comunque, grazie, le categorie, sono tre le categorie del nostro sondaggio a cui potete rispondere chiamando l'800240024. Intanto approfitto per ringraziare da Milano Andrea Roccabella e Laura Vanossi, Alessandro Chiappini da Roma, Fabrizio Intonti da casa sua. Le tre categorie sono gerontoisolazionisti, sopra i 60 anni dentro casa, gli altri fuori, quando finisce l'emergenza escono anche vecchi se sono sopravvissuti all'isolamento. Austero distanzisti, si comincia a uscire però con le mascherine e il distanziamento a 2 metri, non si prendono mezzi pubblici, non si va al teatro, non si va al cinema, non si fa la partita, insomma una vita un po' diversa, ma perlomeno si esce. Liberal fatalisti, usciamo e chi se ne frega, morirà qualcuno, alla fine diventeremo tutti immuni, i più deboli se ne andranno, i più forti rimarranno e alla fine tanto questo succederà comunque, se non lo facciamo adesso lo farà qualcuno per noi. Allora sentiamo Stefano da Reggio Emilia, buongiorno. Salve Nicoletti, Stefano. Buongiorno, senta, buongiorno. Io mi orienterei sulla 1, però non era tanto questo il motivo della telefonata, la sto sfruttando, io sono un medico, la sto tra virgolette sfruttando per fare lanciare una proposta sulla quale riflettevo da un punto di vista tecnico durante questi giorni, che ha a che fare però con le tre fasi di cui stiamo parlando. Sì, sì, ma lo dico, io non credo... è lo sfruttamento, ben venga, se è un contributo a riflettere siamo contenti. È uno spazio che mi viene concesso, per cui... Però allora lo usi bene, perché manca un minuto alla chiusura. Certo, c'è ragione. No, io penso che noi dobbiamo capire con quale branco abbiamo a che fare, perché noi siamo un branco di tutti potenzialmente infetti, tutti potenzialmente positivi e tutti potenzialmente positivi senza nemmeno saperlo. Per e questo cui, abbiamo appena, capito. Appena disponibile il kit per la diagnosi sierologica, ovvero per la diagnosi che consente di dire che virologicamente sono guarito e non solo clinicamente. Sì, ne abbiamo parlato giorni fa. Si prende un campione di popolazione del 10% per regione, va bene, e si fa il test. Se viene fuori che il 10% della popolazione per regione italiana è immune, cioè le IgG nel sangue, a quel punto secondo me il discorso delle fasi diventa un po' più relativo, nel senso che sapendo che... Quindi secondo lei se il 10% è immune possiamo uscire tutti, chi se ne... va bene così? Penso, ma magari lo portiamo pure al 20% se vogliamo essere manichei, però certamente abbiamo un'informazione... Le faccio un esempio, la mia collega e amica Lucia Annunziata, che l'altro giorno, che ieri l'hanno ricoverata, gli hanno fatto il tampone, è venuto fuori negativo, poi gli hanno fatto l'attacco, in realtà a 2 focolai di coronavirus. Ecco, lei probabilmente è riuscita a farsi fare questo tipo di analisi, secondo lei basta questo esame di cui si sta parlando da poco prezzo, disponibile per tutti, per dare questa sicurezza, certezza? Cioè non lo sanno nemmeno gli scienziati che in questo momento stanno studiando a livello mondiale il problema? Lei pensa che con il 10% di tamponi negativi possiamo uscire tutti? Mi sembra un po' azzardato, dottore, con tutto il rispetto per la sua professione. Il kit è in produzione o lo sarà brevissimo, e a un certo punto dovremmo necessariamente utilizzarlo, perché non c'è un'alternativa alla diagnosi serologica, cioè il tampone ci dice solo che ci siamo infettati, ma non ci dice e comunque vedi, però rientra un po' in una lettura lievemente più articolata del liberal fatalismo, cioè alla fine facciamoci questo test, che è un test di cui sappiamo tutti i limiti di certezza, stabiliamo che un 10, un 20% di immuni permette di star liberi, usciamo tutti, vediamo anche succede. Ci fermiamo un istante, però devo dare la borsa adesso. Melog. Chiamate l'800 24 00 24 e diteci qual è, secondo voi, la soluzione migliore per conciliare libertà e sicurezza nel futuro prossimo, schierandovi in una di queste categorie. 1. Geronto Isolazionisti. Tutti i cittadini con età superiore ai 60 anni sono obbligati alla quarantena totale fino a quando perdurerà il rischio di contagio. Gli altri gradualmente torneranno alle loro abitudini, mantenendo alcune norme di sicurezza da rendere obbligatorie, come ad esempio indossare le mascherine. 2. Austero distanzisti. Tutti i cittadini senza discriminazione di età potranno ricominciare a uscire e a svolgere le loro attività consuete tenendo rigidamente una distanza di 2 metri, sia in luoghi e mezzi pubblici sia negli ambienti di lavoro. Rimarranno vietate tutte le attività che prevedono assembramento, tipo eventi sportivi, cinema, concerti, eccetera. 3. Liberal fatalisti. La vita deve riprendere senza sanzioni e obblighi. Ognuno si farà personalmente responsabile del bene comune. È meglio che questo accada subito in maniera pacifica, piuttosto che diventi la causa scatenante di disordini sociali. Il nostro sondaggio. Cosa faremo per la fase 2? Ricordo, perché me l'ero dimenticato, che le voci all'inizio della trasmissione erano prese da un canale YouTube, Daniele Doesn't Matter. Lo dico perché molte volte si arrabbiano gli YouTuber perché mettiamo delle voci e ci dimentichiamo di citarli. Non è per cattiveria, che immaginate che una diretta fatta da casa propria, senza vedere persone in faccia, con due monitor, con almeno 4-5 finestre aperte, può capitare che sfugga quello che l'attento Fabrizio Intonti mi scrive sempre nella scaletta. Andiamo al punto, 3 categorie, geronto isolazionisti, gli anziani oltre 60 anni chiusi dentro casa a tempo indeterminato, gli altri riprendono la vita. Austero distanzisti, si riesce fuori ma si sta a distanza, si sta attenti, non ci si tocca, mascherine, niente cinema, niente teatro. Liberal fatalisti, basta, avete rotto le scatole, tutti fuori, succeda quel che succeda. E Giorgio da Piacenza, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, buongiorno. Quale categoria? Innanzitutto, quale le 3 categorie? Allora, delle 3 categorie io mi identifico di più nella terza. È un liberal fatalista lei. Esatto, esatto. Ecco, l'articolo è un po' meglio, però il liberal fatalista cosa vorrebbe a questo punto? Basta, basta conferenze stampa, basta Conte, basta niente, tutto torna come prima, fine. Beh no, non esattamente così, ma non dico che bisognerebbe fingere che nulla sia accaduto e che nulla sta accadendo. Credo che al di là di adottare qualche avvertenza, come magari portare una mascherina quando si va in un luogo pubblico, però fermare l'economia di una nazione con tutti i danni che ci stiamo portando dietro, che ancora forse non ci rendiamo conto di quanto siano enormi, e lasciare questo in eredità alle generazioni future non credo che sia la scelta più lungimirante. No, questo è, diciamo, è un punto di vista che è in discussione. Lo stesso Presidente del Consiglio, di fronte agli esperti e gli scienziati che dicono che bisogna stare ancora dentro casa, dice: beh, però io devo tenere anche conto di alcune istanze, di alcune pressioni. Il mondo del lavoro dice: ma come possiamo continuare così? È vero, non potremo continuare così. Usciremo tutti salvi, ma tutti disoccupati, tutti affamati, con un'economia disastrata. Però il liberal fatalismo deve prendersi una responsabilità, deve dire con schiettezza: a questo punto la sopravvivenza del mondo deve costare il sacrificio di alcune persone che moriranno. Molti moriranno, perché il liberal fatalismo è un abbassamento delle condizioni generali di sicurezza in nome dell'economia, del salvataggio del lavoro. Che, guardi, non lo dico con un atteggiamento di rimprovero o di attenzione etico-morale. Bisogna capire sul piatto della bilancia a questo punto farà più morti, più disperati, più dolore generale da condividere il tracollo dell'economia generale, la fame, la disperazione, la disoccupazione, o continuare a vedere tantissime bare che vengono portate dai camion, e finché non è la bara di qualcuno che c'è molto vicino o non è la nostra, tutto sommato questo è un prezzo che possiamo pagare. Lei se la sente di rispondermi? Ma guardi, io credo che alla fine... Io non ho risposta, non ho risposta, né una né l'altra, non mi viene in mente una risposta che mi soddisfi, sinceramente. Ma una risposta probabilmente in senso assoluto non c'è, perché viviamo in un momento in cui delle certezze ne abbiamo poche riguardo all'andamento per questo, delle, della, a questo punto bisogna fare una scelta, chi ha delle responsabilità deve fare delle scelte che hanno il rovescio della medaglia di essere o dolorose o di portarci un domani a dover rispondere di aver usato mai male il nostro senso di responsabilità, la responsabilità che ci è stata data. Lei che scelta farebbe, potesse scegliere in questo momento? Dicesse, guarda, tu sei il capo assoluto di quello che dobbiamo fare in Italia. Sul piatto a bilancia c'hai più morti, più bare, oppure c'hai una situazione economica che riprende e in generale il senso generale sarà di maggior sollievo. Ognuno si piangerà i suoi morti, però si tornerà a lavorare, l'economia si riavrà, l'impressione che la vita riproceda normalmente. Guardi, non ho risposta e non è una domanda che in sé ha la malizia di avere già la risposta. Io non saprei rispondere. Lei come risponde? Ma guardi, io farei ripartire il paese, perché comunque non andare avanti con questa metodologia di shutdown non credo e non sono certo che porterebbe all'arresto delle morti, perché tutti i giorni vediamo che comunque ci sono dei numeri di deceduti estremamente elevati. Nonostante, diciamo che arriveremo a un punto di saturazione in cui le persone che hanno delle fragilità finirebbero gli anziani, gli immunodepressi, tutte queste persone, e non ci accorgeremmo più da qui a qualche tempo che ci sono delle vittime. Ma lei, apprezzo il suo coraggio di aver espresso un parere, io no, non me la sento di esprimere un parere in questo momento, veramente è un mio limite, lo vedo come un mio limite. Giordano da Ravenna, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io sono per la seconda soluzione, aggiungendo però l'obbligo, quando si esce di casa, delle mascherine e intanto iniziare un controllo a tappeto di quei controlli che fanno per vedere la popolazione se è stata contagiata e se è ancora tuttora in contagio. Ecco. È quello che ti dicono, un investimento cautelativo, nel senso ci stanno dei piccoli passi, pian piano si esce con le mascherine, si esce distanziati, pian piano si riprende per quanto possibile dei barlumi di attività, passerà più tempo, però intanto le persone che sono sicuramente con anticorpi immuni potranno muoversi più liberamente, si metteranno a punto dei sistemi di sicurezza anche nei luoghi di lavoro, lavorerà meno gente, ci sarà meno produzione, i ristoranti rimarranno chiusi o apriranno soltanto il 10% dei coperti possibili. Lentamente però qualcosa in avanti si fa, mi sembra una posizione prudenziale ma plausibile probabilmente. Marco da Brescia, buongiorno. Marco da Brescia caduto? Allora Adriana da Latina. Sì, buongiorno. Allora, buongiorno. Sono una fanciulla di 70 anni. Quindi fino ad ora ho osservato tutte le regole, amo la mia libertà. Io preferirei che tutto sempre nell'osservanza delle regole, le mascherine, le misure di distanza, tutti potrebbero uscire, anche le persone della mia età. Quindi lei teme il geronto isolazionismo, mentre io dico che mi fa terrore, ma lo accetterei, lei non lo accetterebbe? Non accetterebbe di stare chiusa a casa per il bene comune? Assolutamente no, non è questione di isolazionismo. È questione di amore per la libertà, uscire e non trovare più quell'assembramento di militari, cose che pure ci dovranno essere. Sì, magari. Però fra le varie possibili soluzioni, questa mi sembra che sia la soluzione israeliana, dicono prendiamo tutti gli anziani da 60 in su, li teniamo isolati, quindi evitiamo loro il rischio di morire. Lo sa che cos'è questo? È l'anticamera della morte. Io sono un'operatrice sociosanitaria, lo ero e me lo sento ancora di essere, quindi io la morte l'ho vista, e quando ho lavorato nelle case di riposo ho sempre visto, purtroppo, per quanto possono essere organizzato, la casa di riposo come l'anticamera della morte. Io non voglio stare chiusa in casa ad aspettare la morte, mi voglio andare a vedere un tramonto, desidero in questi giorni, siccome qua è zona rossa, andarmi a comprare un libro, perché adoro comprare libri, mi piace camminare sulla spiaggia, perché poi una persona della mia età come può incidere pesantemente sul tutto. Mi voglio fare liberamente la mia passeggiata, posso vivere un anno, due anni, sei mesi, non lo so, ma quando devo morire? Muoio, tanto prima o poi morirò, e non è fatalismo il mio, è l'amore della vita. Ha capito? Guarda, la capisco benissimo, l'ho fatta parlare perché questa è una posizione più che rispettabile. Un atto forzoso di dire alle persone ti salvo la vita, ti faccio stare a casa, è chiaro che è un atto di violenza. Anche io ho qualche manciatina di anni meno di lei, per me è pesantissimo, io ho una vita attiva, una vita relazionale, viaggio, faccio un lavoro che mi obbliga a tenermi a contatto con le persone, e se io non ho lo stimolo di un mondo da osservare, da raccontare, il mio mestiere è il mediatore, io devo vedere, guardare delle cose con i miei occhi e raccontarle al mondo, o scrivendo, o facendo libri, o facendo film, o parlando alla radio. Il mio alimento, il mio nutrimento, è come lo squalo che se non nuota soffoca, è vedere cose, scoprire cose, raccontare cose. Io quando vedo qualcosa ho il bisogno di raccontarla. Io fra un po' non ce la farò più a raccontare soltanto le pareti di casa mia, i miei piedi, le mie ciabatte e il piccolo angusto orizzonte che vedo dalla finestra. La capisco perfettamente, quindi l'ho fatta parlare perché questa è la risposta di chi dice chiudiamo i vecchi a casa così almeno li salviamo. Salvare che? La signora dice: io lasciatemi rischiare vivere i miei anni residui nella maniera che voglio vivere. Ci fermiamo ancora un istante. Melog. Secondo te ti sto dicendo, a me piace rimanere sempre dentro casa? Ma tutta la Marusa, io non posso vivere tutta la giornata, io prendo tutte le cose, metto tutto quello che mi serve nella valigia, e poi quando voglio mi faccio accompagnare dal nonno. Non si può uscire, mamma. Non si può uscire, qual è il problema? Non ce la faccio stare dentro in casa. E cosa vorresti fare? Io voglio un pochino uscire perché non ce la faccio più a non stare al parco, non andare a scuola, non andare in piccino, non vedere gli altri, non lo stanco. Io me ne voglio andare da qua, non posso stare dentro in questa casa. Questa è la voce di un bambino siciliano che è diventato un meme, il bambino sclerato che dice alla madre voglio uscire, faccio la valigia, vado dal nonno, come dire, gli porto una condanna a morte possibile e probabile, preso dal canale YouTube Unipa Blog, è diventato uno dei simboli del fatto che la gente stia sclerando. Vedo molte risposte sul canale Telegram, Melog ha parlato alla signora che ha chiamato, la signora settantenne, abbastanza impietose. La signora dovrebbe capire se si ammala di Covid per una passeggiata, poi la porta nell'ospedale, occupa un letto, potrebbe servire ad altri. Uscendo non mette in pericolo solo sé ma anche agli altri. Poi se la signora vuole uscire dovrebbe firmare un foglio che se gli prende il Covid non la ricoverano e probabilmente schiatta da solo. È molto facile, non voglio ripetere un termine che rese famoso un noto faccendiere, ma capito, parlare sulla pelle degli altri. La signora avrebbe lecito diritto anche a uscire, probabilmente può essere curata se si ammala. Un po' facile parlare sulle situazioni altrui, però in situazioni di estremo rischio, estremo pericolo, vale un po' la regola del si salvi chi può. Ognuno pensa a salvare se stesso e la sua sfera strettissima di affetti. Stiamo diventando molto egoisti, scopriamo altro che l'altruismo, il nostro profondo, radicale, viscerale ma anche diciamo atavico e naturale senso di conservazione. Metteremo tutti la firma se abbiamo dai 30 ai 50 anni, i vecchi dentro casa, chi se ne frega, basta che noi usciamo. Paola da Roma, buongiorno. Buongiorno, salve. Io di anni ne ho 73 e mezzo. Se mi tengono siricata in casa mi ammazzo, semplicemente. E il foglio di cui lei parlava, cioè che non voglio essere curata, io l'ho già compilato e me lo porto dietro ogni volta che esco a fare la spesa. Ma quindi lei, per diciamo prevenire il geronto isolazionismo, lei c'ha già un foglio: se mi prende il Covid, certo, non vi chiedo nulla, lasciatemi certo in pace. Certo, proprio l'approccio ce l'ho da quando è cominciato l'isolazionismo. Me lo porto dietro ogni volta che riesco a fare la spesa. Io purtroppo sono rimasta sola, proprio solissima. Le persone più care sono distanti più di 30 km da casa mia. Abito in un posto sul mare, a Ostia, e sono, in tutto questo periodo ho potuto permettermi di vedere il mare due volte. Con il patema d'animo magari mi fermano e dicono che non è una buona, un buon motivo per uscire. Ma scherziamo? No, no, ma... Io ho stiamo, no, no, no, ma Paola, è molto chiaro. Faccio sentire le vostre voci, perché magari per me è facile fare il buonino, il simpatico, magari lo dico, mi sacrificherei, poi dentro di me penso un paio di palle, mi sacrificherei, cioè mi sento giovane, gagliardo, hai tante e ho voglia di uscire, quindi potrei dire geronto isolazionismo, un cavolo, stateci voi dentro casa. E non è così facile dirlo, anche perché me lo sono sentito dire da colleghi più giovani di me: beh, sai, forse la soluzione israeliana è la migliore, da 60 anni in su si sta a casa. Eh sì, ma stacci tu dentro casa. Bisogna tenere conto anche di questo. Mi rendo conto che se lo mettessimo ai voti, essendo il nostro un paese tendenzialmente anziano, il geronto isolazionismo non passerebbe, e soprattutto non passerebbe perché gran parte della nostra classe dirigente, classe politica, egemonia, in realtà è fatta di persone abbastanza attempate. Luca da Massa Carrara, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Mi sente? Sì, la sento, la sento. Ah, okay. Io sono per la seconda volta. Sì, ma è un casino, c'ha cioè la radio accesa, cosa fa? Si muove, si agita? Sì, aspetti, aspetti, no? Eh sì, aspetti, dai. Ho detto, io sono per la seconda ipotesi, sono un medico. Sì. Quindi vivo in prima persona i contagi e mi meraviglio che ci sono certi colleghi come quello di prima, ha detto di fare il test che se il 10% di noi è immune. Sì, mi è sembrata, ha detto onestamente, un po' una cazzata, ma non esatto, andava una di... cazzata, detto, cioè, quando sento queste cazzate mi vergogno di essere medico, perché uno che è un medico non può dire queste cazzate, oltretutto una trasmissione, perché si diffondono delle false notizie. Sì. Ma io infatti, come nota, ho cercato in maniera educata, perché cerco di essere sì, educato, so, come istinto sarebbe che di, essere, ripeto, di fargli dice... capire che abbiamo detto, quel test non ha una validità assoluta, la mia collega gli hanno fatto il test, è venuta negativa, poi gli hanno fatto attack e aveva due focolai, quindi non tiene conto di tante fattispecie, non basta dire il 10%, è esattamente un liberal fatalismo, dire tanto va, diamoci una ripulita esteriore che abbiamo fatto qualcosa, ma fuori, fine, basta. Mi meraviglio anch'io che un medico dica questo, che è contraddetto fra l'altro dalla comunità scientifica che si sta esprimendo in maniera molto più cautelare in questo momento. Quindi grazie di avermi dato una sponda scientifica rispetto a quello che avevo provato in qualche maniera a far capire al signore che aveva parlato. Quindi diciamolo, quello che ha detto quel signore non ha nessun tipo di validità, il suo collega, da un punto di vista razionale. Il 10%, il 20%, che vuol dire? Con un test che in sé non è in assoluto certezza, su un virus in cui non c'è assoluta certezza, su come si presenta, come si può ripresentare, quali sono le maniere per individuarlo, per combatterlo, in un momento di totale incertezza dire il 10%. Tanto vale, mi corregga dottore se sbaglio, uscite tutti, via, chi se ne frega, moriranno i più deboli, è qualcosa del esatto, genere. Esatto, sì, sì, ho detto, ma voi lo sapete perché si muore di coronavirus? Lo ripeta. Ho detto, lo sapete perché si muore di coronavirus? Si muore perché entra un virus dentro dai bronchi, scende giù e non ci fa più respirare. Bravissimo, perché io ho visto un sacco di TAC in questo periodo, di polmoni pieni di tessuto infiammatorio, tutti pieni, e praticamente si muore perché non c'era più la possibilità di scambiare l'ossigeno con l'esterno e quindi uno muore. Si soffoca come motivo, quando uno gli metti la testa sul tacco. Ma secondo lei uno può prevedere che se prende un virus avrà il 5, il 10, il 15, il 20, il 30, il 40% di polmone libero che gli permette di respirare oppure no? Si può prevedere? Dovrebbe fare un attacco generale ogni persona che va in giro per strada, bisognerebbe girare con la macchinetta, farle tacca a tutti, per assurdo, fosse possibile, e tanto non ci sarebbe la certezza, perché dopo due ore dovrebbe rifare le tacca a tutti, sbaglio? Sì, ma no, stavo soltanto facendo un'ipotesi, stavo cercando di rispondere all'affermazione che ha fatto il mio collega. Ma secondo lei, noi siamo uno prende il Covid, no? Facciamo l'ipotesi che uno prende il Covid e ci sono delle persone che hanno un sistema immunitario potente, potentissimo, e che diciamo così limitano l'infezione. Ma altre persone, che è un po' indipendente dall'età, perché a me mi risulta che sia morta una ragazza di 16 anni in Francia, stava benissimo. Ci sono anche delle circostanze che ti rendono più fragile. Io ho dei colleghi ricoverati per rianimazione e sono dei colleghi che hanno naturalmente più di 16 anni, ma anche al di sotto dei 50 anni, che non hanno nessun tipo di patologia, eppure sono ricoverati in rianimazione. Allora, il liberal fatalismo, come l'abbiamo espresso noi, che è diciamo una categoria che dovrebbe far rivelare un lato forse discutibile dell'umanità, equivale alle persone che in tempo di AIDS facevano le ammucchiate, avevano partner multipli senza dirgli che erano infetti, dicendo, dice, a me me ne importa niente, vivo, galleggio a una distanza tale dal senso di responsabilità che alla fine, finché sono vivo io, respiro io, mi va bene, e se dovesse accadere che anche a me succede qualcosa, beh, chi se ne frega, avrò vissuto bene. E bisogna dirlo che è così, è inutile, di fronte alla non certezza, il termine cautelativo che dovrebbe prevalere per saggezza è la massima cautela, rinunciando a molto della propria libertà. Se rinuncia alla propria libertà ci permette di sopravvivere, la sopravvivenza dovrebbe essere il principio che anima tutti. Tutti chiusi dentro casa 2 anni, finché non si trova un vaccino, non si trova una maniera per sconfiggere il virus, è la soluzione che sicuramente è più prudenziale. Naturalmente siamo esseri umani, abbiamo delle esigenze, come le signore che hanno parlato prima, dice, io ho 70 anni passati, voglio respirare il mare, giro con un certificato che se mi prende il coronavirus avrò vissuto bene gli ultimi giorni. Grazie dottore. Luca, Alberto da Roma, buongiorno. Eccomi qua, buongiorno a voi. Sì. Come sentite, anche nel settore medico non ci stanno dei pareri concilianti. Io sentivo prima un signore che diceva il terzo caso e lei ha risposto sì, ok, riprendiamo l'economia e tutto e vedremo sempre più morti. Però è anche vero che quest'anno non è che sono morte più persone l'anno scorso. Io non dico che non sia grave questa cosa, dico soltanto che l'informazione che viene data è esageratamente sbagliata, perché si mette nel calderone tutto quanto. Tutti quelli che muoiono oggi muoiono di coronavirus, cosa che sinceramente non credo che sia vero. Allora, scusi, lei lei è di quelli che sospettano che ci sia una sorta di complotto. Allora, l'informazione procede pari passo con quelli che sono i tempi della ricerca scientifica, che non ha delle certezze immediate. Proprio per questo il sistema scientifico è un sistema che continuamente si sovrascrive rispetto a quello che ha detto. E di fronte a un'emergenza così, la scienza non può dirti oggi quello che è. Gli elenchi dei morti sono persone che comunque sono state ricoverate che hanno il coronavirus, e poi hanno anche circostanze aggravanti, è relativo. Lei segue la teoria che sta girando oggi, che in realtà si esagera sui morti, in fondo non muore la gente, è tutta una cavolata. E questo mi sembra un po' limitativo. Siamo arrivati alla fine, abbiamo dato visibilità totale a tutte le categorie, mi sembra che si sono ben rappresentati gli ascoltatori in tutte le posizioni possibili. Alla prossima.